Mix 24 di Giovanni Minoli. A 6 mesi dalle prime scosse la terra continua a tremare, ma non si placano neanche le polemiche per i ritardi sulla ricostruzione. Si è cominciato male, si sta proseguendo peggio. Questo modello di ricostruzione non funziona. Sono le parole del sindaco di Visso, comune marchigiano. Ancora non vediamo l'ombra di una casetta, quindi non riaprono le scuole, questa è la mia preoccupazione. Errani getta acqua sul fuoco dopo le polemiche di questi giorni. In un audio pubblicato da Panorama, il commissario straordinario si sfogava davanti ai sindaci. Ma non esiste il fatto che per cominciare a fare le casette si attenda ad avere fabbisogno definitivo di tutte le casette. Non esiste. Fate presto, i paesi scompaiono, rilancia il sindaco di Pieve Torina, perché a 6 mesi esatti dalla prima violentissima scossa non si vede la luce. Buongiorno, bentornati a Mix 24. Dunque, sono passati 6 mesi dal primo terremoto che ha colpito il centro Italia. Le condizioni del territorio, delle persone, non sono affatto migliorate. Avete sentito il fuori onda del commissario Vasco Errani, che si lamenta con molta forza verso il governo in un incontro appunto con i sindaci ad Ancona. Noi abbiamo Sergio Pirozzi, il sindaco di Amatrice. Buongiorno, buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Senta, c'ha ragione Errani, no? Sì. Non lo so, il commissario è lui. Io faccio il sindaco. Ma cosa ne pensa di questo sfogo? Vuol dire che se il commissario arriva a quel punto, vuol dire che la macchina non è proprio partita. Ma se il commissario arriva a questo punto, io dovevo andare via 6 mesi fa. Io sto qui. Noi abbiamo consegnato 34 aree e si sta lavorando contemporaneamente su 34 aree, perché non dimentichiamoci che il fabbisogno di case, quasi il 50%, è solo da Amatrice. Ecco, ma da Amatrice, per esempio, quante casette servono? Casette, quante ne servirebbero? Guarda, 530. 530? Quante, sì. E quante ce ne sono, arrivate adesso fino adesso? Adesso sono partiti tutti quanti i lavori, perché prima bisogna fare le opere di urbanizzazione. Noi abbiamo sposato un modello avendo un territorio di 174 km quadrati di territorio, 69 frazioni, dove è possibile le frazioni di prossimità. Non dimentichiamoci che siamo in montagna, per cui spesse volte i terreni non sono idonei. Ecco, però Errani, in qualche modo, se non ho capito male, accusava le regioni. Perché? Sì. Perché? Beh, perché secondo me lì ci sono delle difficoltà, perché l'ente attuatore poi di tutte queste pratiche, che sarebbero gli appalti per le opere di urbanizzazione e tanto altro, è delegato alle regioni. Noi, e quindi questo fatto che la regione che si voglia avere il piano complessivo prima di cominciare è come dire non cominciamo mai. Guarda Giovanni, io non voglio fare il bravo, noi abbiamo iniziato senza aspettare il fabbisogno finale, perché ecco, qui ci sono stati 4 terremoti, l'ultimo è del 18, noi adesso abbiamo preso delle aree che l'abbiamo considerate le cosiddette aree polmone, dove magari escono altri fabbisogni, la gente dovrà andare lì per forza, anche se è di un'altra parte del comune d'Amatrice, ma che dovevamo fare? Certo, ecco, ma non ho capito bene, quante sono state, i terreni ho capito, ma le casette costruite, quante sono state Pirozzi? Ma le casette, Giovanni, è l'ultima cosa, perché prima servono tutte le opere di urbanizzazione, servono le platee. Qui stanno andando avanti circa 70-80, stanno in piedi, però adesso bisogna mettere il gas, la luce, l'acqua, per cui si sta lavorando, però ecco, io non è che... Ecco, ma quando tu hai detto che il 10 marzo, se non ricordo male, hai detto che il 10 marzo consegnavi le prime 25, 10 marzo. Io sto qui in cantiere. Ah, ecco. Altro sta andando avanti sul territorio, ma io credo, se non ci sono intoppi, ma io penso di no, noi il fabbisogno totale, questo per giugno sarà fatto. Ah, per giugno sarà completo. Dico il tutto, Com'è? Il tutto, Giovanni, sì. Il tutto. Un buon 50% se il tempo rimane così, anche perché qui ha fatto 2 metri di neve, per cui per un mese e mezzo state fermi, siete stati bloccati. Il blocco dei lavori. Certo, ma per esempio, intanto uno dei problemi fondamentali di cui ci parlavi l'altra volta sono gli animali. Si è risolto in qualche modo, si è riuscito a risolvere? Sì, sì, la regione sono in sicurezza. Ti dico la verità, ha funzionato. A un certo punto ha dato impulso, però ti dico pure... che poi dopo la regione Lazio in fondo c'ha solo Amatrice e Accumoli, è vero che Amatrice, come ti dicevo prima, questo fabbisogno è quasi il 50% del totale del sisma, sì. Però c'è stato un impulso, quindi ha potuto concentrare gli sforzi su un punto solo, diciamo così, sì, no? Sì, sì, ma sì. È vero questa cosa, che non è quello che dice Errani, che più o meno aveva aggiunto questa non è ricostruzione ma solo gestione dell'emergenza? Tu dici di no, in fondo, almeno per quello che riguarda Amatrice la fase è già la fase successiva. Sì, anche se poi è chiaro che la ricostruzione adesso passerà nel licenziamento dell'ordinanza per le case, e io lo sto aspettando. In pratica sarebbe la possibilità dei proprietari di chi ha avuto distrutto la casa di incominciare a fare i cosiddetti lavori, e quello è il piano per la ricostruzione. Però, adesso io certo. Mi auguro che ci siano le stesse risorse che sono state messe per l'Emilia, parlo sui metri quadri, sì. Ho la sensazione che così non sia, mi sto studiando e poi farò presente che insomma una parità di trattamento. Beh, dovrebbe essere ovvia, è dovuta, certo, assolutamente. È sì, ma intanto negli hotel sulle coste la situazione mi sembra che si stia un po' scaldando, perché da una parte i proprietari degli alberghi cominciano a pensare che la stagione estiva si avvicina e quindi hanno bisogno delle loro strutture libere. I terremotati vedono avvicinarsi la data con noi molta preoccupazione. Noi non dovremmo aver problemi, Giovanni, perché ne sono pochi e come ti dicevo prima... Il grosso noi l'abbiamo con chi si è sistemato in maniera autonoma, circa 800 famiglie usufruiscono di quei benefici messi a disposizione dallo Stato. Ah, ecco. Lì a San Benedetto siamo intorno a 100-110 persone. Vabbè, quindi una cosa risolvibile, sì, diciamo. Sì, ecco. Sì, senti, sì. Ancora almeno una bella notizia per chiudere, perché abbiamo visto che... per festeggiare i suoi 50 anni Baggio è venuto a trovarlo. Sì. Baggio, che è un personaggio davvero singolare, perché è molto, molto restio a esibirsi, a sfruttare la sua popolarità, e invece è venuto e ha festeggiato i suoi 50 anni da sì. voi. È stata una bella giornata, no? Ma sì, una persona di sport straordinario, la sua vita rappresenta la metafora anche del nostro territorio, perché lui ha avuto tanti infortuni. Esatto, ha avuto sempre la capacità poi di rialzarsi, di combattere, non si è mai arreso. E quindi è un bel esempio, insomma. Io mi auguro, ecco, che il commissario prenda forza, che prenda coscienza, perché se no diventa anche un fatto che fiacca le resistenze. Certo, il commissario deve essere il condottiero, certo, in qualche in modo. Linea, perché... No, perché se no non è lui... comincia a essere un problema. Certo, senta, va bene, ciao. Io ti dico, siamo sempre qua noi, sì, a disposizione sì. tutte le volte che c'è un problema in più e sì. qualche anomalia nello sviluppo della situazione, ci chiami e noi ci siamo, va bene? Ti ringrazio di cuore e buona giornata. Ciao, buon lavoro a te. 800 24 00 24 per gli sms 349 238 6666. E allora andiamo avanti. Pietrangelo, che cosa ci fai ascoltare? Eccola. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te, non ti la lascerò. Allora? E ogni mattino è un inizio, ogni ieri è un deposito da dove attingere tesori. La gioventù non se ne va mai via. Ha chiamato Ulisse, ha voluto questo brano per Penelope con un messaggio: non mi perdo per le strade del mondo, mi fermerò. E si perde per le strade. Bravissima, la Civello, bravissima, bravissima. So che quest'ora la mattina è stupendo. Lo so, ma ti viene proprio una giornata languida poi. Beh, bella giornata languida. Tanto sei romantico, mi fai venire tutte le bolle rosse in faccia. Vabbè, va bene, dai, con le bolle rosse che bolla ci racconti? Più di ritmo, Eagles. Allora, Giovanni, in Romania un gruppo di manifestanti, leggevo stamattina questa cosa tutta dipinta di retorica, un gruppo di manifestanti contro il governo, sai che c'è una disputa abbastanza grossa tra un pezzo dell'opinione pubblica e il governo rumeno, e ha formato in piazza una bandiera dell'Unione Europea. Ora tu puoi immaginare l'euro-retorica che si è scatenata nel mainstream dei media su questa cosa qua. Giubilo dei cronisti, applausi dei politici europei, le cancellerie si sono mobilitate, e il progresso, ragazzi. Va bene, vorrei ricordare sommessamente, per carità, senza dare lezioni eccetera, però qualche lezione che invece viene dalla storia. La Polonia si liberò inneggiando ovviamente all'Europa Unita, al mercato unico, alla libera circolazione delle monete. Oggi ha sviluppato la forma più, diciamo, efficace di nazionalismo, più solida che c'è nel vecchio continente. Non ha nessuna intenzione di agganciare l'euro, ovviamente, eccetera. In Ungheria si proietta esattamente lo stesso film, addirittura in una forma ancora più dura, con il presidente Orban. Anche loro non hanno l'euro. Vogliamo parlare dell'Ucraina? La grande meta della rivoluzione è telediretta dagli americani, telecomandata dagli americani in realtà. È praticamente uno stato semifallito, sottoposto di fatto alla respirazione artificiale degli aiuti internazionali, Fondo Monetario compreso. Ha perso la Crimea, d'altronde non era neanche pienamente sua. Non è ancora riuscito a fare pace con i russofoni dell'Est, che in realtà vuole eliminare. Insomma, attenzione alla retorica e soprattutto alle rivoluzioni da tavolo, le chiamo io. Bisogna stare attenti, perché poi sfociano sempre in qualcosa che è l'opposto di segno diverso. L'abbiamo visto tante volte. Esatto. Attenti. Salamino. Chi si scinde e chi si aggrega? Il Partito Democratico è bello che spaccato, e la galassia del centrodestra invece mira alla riunificazione. Non è possibile. Ci sarà anche Alfano? Davvero. Vengo anch'io. No, tu no. Vengo anch'io. No, tu no. E vengo anch'io. No, tu no. Perché? Perché no? All'aggregazione del più infinitesimale degli atomi, alla fusione tra gli elementi più pazzi della chimica organica, inorganica eppure organistica. E dove se no si possono riunire tanti codesti, qualesti, questi, questi, questi, insomma tutti quanti? Genova per noi, che stiamo in fondo alla campagna. Il banco di prova sarà Genova. Giorgia Meloni, che è il leader della destra italiana, manda un messaggio a Silvio Berlusconi: facciamo un listone unico del centrodestra, questo alle amministrative. E che succede? Tutti dicono sì. Ha detto sì Toti, che è il governatore di Liguria, dalla Puglia. Hanno detto sì Fitto e Quagliariello. Da Milano ha detto sì la Santanchè, da Torino ha detto sì Osvaldo Napoli, da Roma ha detto sì Barbara Salta Martini, forse dice sì anche Maurizio Lupi e Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi e il cavaliere, sornione come il gatto, lascia che i topi ballino. contempla la propria casa politica, dove ormai, come ci dicono le cronache, ci sono solo posti in piedi, e aspetta. Non parla, il Partito Democratico si sfascia e lui attende di mettere nel sacco i topini redenti. Non parla, ma borbotta invece Matteo Salvini. A Genova, dopo tutto, ce l'ha un fuoriclasse, un leghista di quelli che può vincere, c'è Edoardo Rixi. Potrebbe quindi costruire una sorpresa nella città da sempre fortezza del comunismo alto locato, tutto di uomini chic e femmine pettate. Comunque, che cos'è Genova? Paolo Becchi oggi sul Libero fa un bel pezzo e la definisce città di Giano con due volti. Ora, quali delle due facce vincerà? Intanto, Giovanni, io e Mario che dicevamo? Che era finita per Berlusconi. Io non l'ho mai detto, ho detto sempre il contrario. No? Non è finita, mi pare, anzi. No, però dicevamo che era finita. Dicevamo che era finita, non è finita. Ma chi ammettilo, è lui? Mario, che lo dicevi. Lui è il gatto. È vero, ma è 9 vite, 10, 12. Lui chi è? Appunto, il gatto ne ha 7, lui 9, 10, 12. Il gatto Silvio chi è? È la... C'era una volta una gatta. È una gatta perché in fondo chi è? È la padrona di casa, lui. Soffitta vicino però, al mare con Giovanni, una fine. Non ha parlato a un passo dal cielo, neanche giù. Neanche un accenno. È pericoloso per Renzi. Sì. Il fatto che non comunque ne è tornato dalla California e subito è andato da farsi. Vabbè, normale. È andato a casa, no? Accidete la cosa. Ma tu lo capisci con tutti i problemi che ci sono sugli stipendi delle star in Rai, credo che. Da Fazio, no, quando in direzione nella serie che te do che me dai, hai capito? Ma secondo te, scusa, una cosa incredibile. Scusa, dimmi. Mario, Giovanni, tu, ma secondo te finirà come aveva detto Berlusconi? E cioè che Renzi se lo prende a Mediaset e gli fa fare il conduttore? A chi? Quello può darsi a 230.000 euro però. Contento. Contento, Mario bolla. Sì. Bene, più che amore, la mattina ci vogliono canzoni che ispirano anche. Senti questo, Boston. Grande pezzo. Allora, cosa succede in borsa? Molti si chiedono, c'è stato un rally fortissimo, 11 balzi consecutivi positivi hanno polverizzato tutti i record a Wall Street. Molti dicono è arrivata talmente in alto, è una bolla, diciamo, anche quella che si aggiunge alle altre trampiana di aspettative, e dunque prima o poi crollerà. Probabile che succeda, d'altronde gli indici vanno su e giù. In ogni caso nessuno può dirlo con certezza, perché certo, se c'è una cosa difficile da prevedere è proprio quella. Certo. Il mercato attende, c'è un appuntamento importante domani, il discorso di Trump di fronte al Congresso. Lì il Presidente potrebbe diciamo confermare oppure correggere alcune indiscrezioni che stanno uscendo in queste ore, e cioè di un aumento della spesa per la difesa, indiscrezioni su tagli che riguardano soprattutto le agenzie governative e così via. Basterà tutto questo ai trader? No, vogliono il piano fiscale e gli investimenti in infrastrutture. Seguite sempre però il consiglio di Warren Buffett, che nella lettera di ieri ha detto: il nostro più grande alleato è la paura. Questo è il più grande alleato del potere in generale. Bravissimo. No, io volevo farvi una domanda, ma voi questo Trump che non va alla festa dei giornalisti tradizionali, dei giornalisti accreditati alla Casa Bianca, come la vedete? Vuoi una risposta secca? Seria. Ha fatto bene. Perché? Beh, cioè voglio dire, il pregiudizio è il report, la qualità del reporting su delle cose scritte su Trump da parte di gran parte dei cosiddetti grandi giornali è vergognosa. Ma io invece penso che ha fatto bene per un'altra ragione. Sì. Perché è arrivato il momento di distinguere, certo, fra l'informazione, beh, e sì, il potere. Deve essere il guardiano del potere, l'informazione. È meglio che non si mescoli tanto. No, ma vale anche per Hollywood e per gli Oscar. Ma scusa, hanno fatto, posso solo 30 secondi, hanno fatto tutta una polemica perché Sean Spicer aveva escluso il New York Times e altre testate dalla conferenza stampa. Benissimo. Andate a cercarvi negli archivi quando Obama faceva le riunioni private con i suoi cronisti preferiti. Lo stesso New York Times si lamentò, per modo di dire, di questa pratica. Non c'è niente di nuovo, non news. Problema è solo che c'è un pregiudizio su Trump, vabbè, okay, che non faceva parte del loro gruppetto, vabbè, dell'establishment, punto. Vabbè. E tu pensi che ha fatto bene a non andare? Sì, assolutamente. No, Pietrangio, scusa. Il mondo dell'informazione non è vergine. Se la politica decide, per esempio, di rompere con il mondo della finanza e con l'establishment in genere, mi pare ovvio che poi debba rompere anche con quella che è la vetrina dell'establishment e del potere estraneo alla volontà sovrana della politica. E quindi la mossa ben gli sta al mondo nostro, sì, quello dell'informazione. Infatti, bisogna notare che c'è una bella differenza tra ciò che succede negli Stati Uniti d'America e quando succede altrove. Quando succede altrove si grida allo scandalo, certo, quando succede negli Stati Uniti d'America diventa un tema di sbattito nel glamour. Sì. Vabbè, però insomma, io credo che sia interessante anche la vicenda degli Oscar, il fatto che non, sì, si sono pure sbagliati gli Oscar. Sì, sì, ma doveva vincere la La Land, perché no, ma assurdo. Ha detto che aveva vinto La La Land, ma dopo doveva vincere, capito? Perché era il simbolo, la metafora di tutto quello che non è Trump. La Land non ha vinto le elezioni. Esatto, non si rendono conto di questo piccolo particolare, non gli entra in testa. Guarda, sto leggendo un saggio straordinario che è uscito sulla Claremont Review, meraviglioso, dove spiega come Trump, che piace o meno, ripeto, che siate favorevoli, sì, o meno, dai, è tornato alle origini del movimento del vecchio Partito Repubblicano. E c'è proprio un parallelo bestiale sulla politica economica, politica di difesa e politica di immigrazione. Benissimo. So che ovviamente poi tutto è ridotto a sta roba qua, alla La Land, capisci? Ecco, per la storia, come abbiamo detto prima, mentre nel PD appunto si parla di scissione, anzi si fa la scissione, noi torniamo a un'altra grande fase di svolta della sinistra italiana. All'inizio degli anni 90, all'interno del Partito Comunista Italiano, si è aperta una discussione mai vista prima, che si conclude col passaggio storico del vecchio PC a due nuove formazioni politiche, il PDS da un lato, di Occhetto, e Rifondazione Comunista dall'altro. È una svolta chiamata la svolta della Bolognina, che racconteremo nella storia dopo il giornale radio. E per chiudere, Gloria Guerrera, che cosa ha scelto per noi? Oggi una canzone per chi con uno sguardo solo, senza nascondersi, raggiunge l'unione più bella. Lucio Battisti, Amarsi un po'. Amarsi un po' è come bere, più facile è respirare, basta guardarsi e poi avvicinarsi un po' e non lasciarsi mai. Impaurire, no, no. Amarsi un po' è un po' fiorire. Aiuta, sai.